Europa 24. Ancora un saluto da Gigi Donelli. Dunque, gli aiuti a Banca Tercas del Fondo Interbancario sono aiuti di Stato incompatibili. Questa è la conclusione dell'indagine della Commissione UE, secondo cui il FID ha agito per conto dello Stato italiano. L'Italia inoltre non ha presentato un piano di ristrutturazione. Dice bene ora l'intenzione delle banche private di intervenire volontariamente. Risposta tra le risposte, quella di Sandro Gozzi, sottosegretario, dice la Commissione ha dato la sua interpretazione discrezionale. Noi crediamo sia stata poco saggia, lo ha detto oggi in un'intervista al Corriere della Sera, appunto, Sandro Gozzi, a proposito della lettera di Bruxelles su banche e salvataggi, spiegando però che non c'è in corso nessuno scontro. A Bruxelles le autorità belga hanno arrestato un nono sospettato legato agli attacchi di Parigi. L'ufficio del procuratore federale belga ha detto che il sospetto, il cui nome non è stato divulgato, è stato fermato con l'accusa di partecipazione a gruppo terroristico e di omicidio. Il suo arresto avvenuto ieri è stato precisato spiegando che si tratta di un cittadino belga nato nell'85, dunque un trentenne, che ha avuto diversi contatti con Hasnait Boulachen e Abdelhamid Abaoud, due cugini sospettati di aver organizzato gli attacchi di Parigi e uccisi da un raid della polizia francese. Gli alti livelli di inquinamento atmosferico di queste ultime settimane aggravano la posizione dell'Italia in Europa per il mancato rispetto delle direttive sul controllo delle polveri sottili nei confronti del nostro paese. Sono due le procedure di infrazione già aperte. Il punto con Anna Gerometta, avvocato e presidente di Cittadini per l'Aria. In questo momento l'Italia ha pendenti due procedure, una che è già la seconda peraltro dopo una prima condanna per il PM10 e una seconda procedura per la quale ha ricevuto una letter of formal notice, che è sostanzialmente l'intimazione ultima per l'NO2, cioè il biossido di azoto, inviata dalla Commissione nel maggio del 2015. Rispetto alla condanna che abbiamo già subito, quali furono le motivazioni? La Corte di Giustizia in quella sentenza dichiara che è irrilevante il motivo per cui si è verificata la violazione dei limiti, o meglio, che la violazione discenda dalla intenzione dello Stato membro, dalla negligenza dello Stato membro o da possibili difficoltà tecniche o economiche o tra virgolette politiche, tenendo conto che effettivamente la salute è un bene prevalente e quindi deve essere difesa. Ecco la posizione di Anna Gerometta, lo ricordo, avvocato presidente di Cittadini per l'Aria, raccolto dalla nostra Laura Bettini. E infine la Commissione UE ha assegnato un totale di 48 milioni di euro per Svezia, Finlandia e Belgio per aiutarle a gestire il flusso dei migranti richiedenti asilo che sono arrivati nei tre paesi. La decisione attribuisce 35 milioni a Stoccolma, 8 a Helsinki, 5 a Bruxelles, sotto forma di finanziamenti d'emergenza che provengono dal fondo UE per l'asilo, la migrazione e l'integrazione. Tutti e tre i casi verranno aiutati per rispondere ai bisogni immediati dei rifugiati, soprattutto per fornire loro cibo e alloggio. Con questa notizia è tutto per l'aggiornamento sulle notizie europee. Naturalmente per tutte le altre informazioni vi rimando ai prossimi giornali radio. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.